Siamo in missione per conto di Dio. Quattro mattino di Luca Telese. Buongiorno, sì. Due bombe per svegliare quest'Italia sopita. Io vivevo in California e nessuno conosceva il vino secco. Due anni dopo il mio arrivo non c'era un solo bar della periferia di San Francisco che non servisse il vino secco. Ma veramente Grasso ha detto testualmente il virgolettato di Repubblica di questo partito che mina le istituzioni? Non condivido nulla. Quando noi fummo fatti tanto avante che al mio maestro piacque dimostrarsi la creatura che ebbe il bel sembiante. Ti accolgo con un verso di Dante, tra quattresimo canto dell'inferno. Sant'Evaristo, che si commemora oggi, Sant'Evaristo, peccato non insisto. Ci lamentiamo che ci chiamano bamboccioni e poi lasciamo che vadano a prendere i nostri figli fino a 14 anni a scuola. Bravo! Avevo un salvagente di Mazzini quando andavo al mare. Ah, vedi? Vedi? Un bel ricordo di Mazzini. Allora, Speranza gli prende un coccolone, se è rimasto con le casse. Che lavoro fa il Papa? Fa il Papa. Il Papa Ratzinger ci ha insegnato che nemmeno il lavoro del Papa è più a tempo indeterminato, è diventato un lavoro flessibile. Solo un tedesco poteva portare la flessibilità. Puoi dire come Bush, e l'ho fatto ma in modo educato. Sì, se lo dicessi io, mia moglie mi stacca la mano. Siamo una squadra fantastica, sulle note di Zalone, fatta a forma di svastica, ma che bella è l'allena Rudolf. Yes. Reach out and touch me. Me li ero dimenticati quei deliri dei tifosi ultra. E allora buongiorno popolo dei già svegli, eccoci, 6 e 30 minuti, 42 secondi, qui al mio fianco il comandante Alberto Castelvecchi. Buongiorno. È una grande giornata perché raccoglie le notizie del weekend. Allora oggi il fritto misto bolle con particolare intensità. Pieno rispetto per la decisione del Presidente del Senato e proprio per il rispetto che si deve alla figura istituzionale del Presidente del Senato, credo che sarebbe profondamente sbagliato mettersi adesso a fare polemica. Quello che è importante è che sul tema di merito che il Presidente Grasso ha posto, cioè della fiducia sulla legge elettorale, io la penso come il Presidente Gentiloni, come il Capogruppo Zanda e come il Capogruppo Rosato. Matteo Renzi che risponde, aveva il sassolino nella scarpa allo strappo con cui Grasso ha lasciato il PD, apre a sinistra ma gli chiudono la porta in faccia, lo vedremo fra poco, e si trova davanti un Beppe Grillo che gira con la motocicletta elettrica per la Sicilia. Si potrebbe cambiare, questo non è un voto secondo me, non andate a votare, non è un voto, è un referendum. Dovete scegliere tra un mondo in quasi via di estinzione vecchio, dove questa gente che avete nominato prima si aggrappa e che cercano sistemi per stare lì e si equipaggiano gli strumenti anche per stare in quel mondo che ormai non c'è quasi più, oppure scegliere di qualcosa che non abbiamo garanzie. Vi ricordate la saga della nuova marcia su Roma? Alla fine è stata vietata e si è chiusa con un'iniziativa dell'ANPI la giornata in cui cantavano Bella Ciao. Si è arrabbiato Maurizio Costanzo contro il nuovo palinsesto. Ben trovati. Ci rivediamo dopo l'estate, praticamente in una collocazione di giorno e di ora diversa, però non preoccupatevi, nel senso che se tutto va bene, di chi a qualche tempo passeremo direttamente la linea a 1 mattina e quindi andrà tutto liscio. Anche Maurizio Costanzo polemico con Fazio, proprio e piove sul bagnato. Sì, insomma, Fazio non piace a nessuno, appunto, però Costanzo è stato uno dei grandi perdenti, diciamo, della stagione televisiva passata e quindi probabilmente Perché si perdente? Ma perché, diciamo, il sogno sarebbe quello di tornare sui livelli di audience di quando Costanzo era Costanzo. Insomma, è una grande voce, un grande testimone del nostro passato televisivo, con l'immenso rispetto che va a questa figura di giornalista, però... Purtroppo, per fortuna, io dico più purtroppo, la fanno da padroni, quindi come Fazio in questo momento. E guardate che cosa succede nella saga I Reali d'Italia, Chiara Ferragni e Fedez. Sai che hanno fatto? Hanno mostrato l'ecografia del piccolo leone. Non bastavano i piedi di Chiara Ferragni messi in pubblico, anche l'ecografia, feto, ma lasciatelo stare sto povero. Però io mi aspetto che ci sia una griff, cioè non so con quale griff verrà griffata l'ecografia, il primo selfie. È chiaro che tutto è in vendita. So we are officially 5 months pregnant. We couldn't wait to share the news with you. E fatemi gli auguri che devo sopportarla con gli sbarzi, ormonali. Guarda che è patato. Questo bebè era violino. Era che patato. È troppo bello. Lo chiamano raviolino, ma quello è bello, tenero, affettuoso. E Cancelleri, era un po' che non si sentiva il candidato dei 5 Stelle e beh, ha detto una cosa di una cattiveria su Cancelleri, sentiamola. Poi si sta nel Parlamento siciliano, dai, anche lui, no, votando quando lui era stato messo a capo della commissione antimafia, quindi vuol dire che prima vi fidavate, ora invece, solo perché vostro avversario politico, attaccate oppure avete cambiato idea. Ci siamo sbagliati, in un momento di difficoltà della sua vita personale abbiamo creduto tutti, facendo un ragionamento che in politica non aveva nulla, ma era un ragionamento umano, che in quel momento era giusto dargli anche uno scopo all'interno del Parlamento siciliano, dargli qualcosa che in qualche modo lo potesse rimettere di nuovo in carreggiata. Era un reddito di cittadinanza praticamente. No, non è un reddito di cittadinanza, lui avrebbe dovuto dargli un attestato di stima umano, perché lui stava, in quel momento aveva subito una grave mancanza. Secondo me questa battuta che ti hai sentito un po' sporca è molto rappresentativa, cioè il militante 5 Stelle dice a Cancelleri: ma voi avete eletto Musumeci, presidente dell'antimafia, in un ruolo condiviso che rappresentava tutto il Parlamento, e Cancelleri, secondo me volendo giustificare, però dice una cosa: no, gli abbiamo voluto dare uno sfogo, un ruolo, perché gli era morto il figlio, è una cosa, mamma mia. Per ragioni umanitarie, non per so ragioni umanitarie. Ma meglio, era meglio se non si fosse giustificato. Era meglio se non avesse parlato, diciamo. Anche ammesso che Cancelleri diventi futuro presidente della Regione Sicilia, ci aspettano tempi bui. Non è esattamente la figura più carismatica che potesse scegliere il movimento, il quale, d'altro canto, di figure carismatiche al governo degli enti locali per il momento ne ha messe ben poche, come dimostrano Roma e Torino. Sei cattivo, ma adesso ti faccio godere perché c'è una nuova star. Una nuova star in arrivo nella musica pop mondiale. Temo di sapere chi è. Lo sai? Il karaoke di Enrico Letta, sì, che canta Bennato. Qua mi ferisce al cuore perché sono amico di Enrico. Sei sempre preparato, e vai. Sentiamo. Seconda stella destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino. Poi la strada la trovi da te. Porta stai l'isola, sereno, l'isola che arrivi anche te. Brava. Forse questo ti sembra strano, sentiamo. Ma la ragione ti ha un po' preso la mano. Qua andiamo maluccio, qua stiamo già sbarellando. E ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. Beh, abbiamo dato un ampio spazio e perché è un'operazione interessante. E invece esiste l'isola che non c'è, e il centro-sinistra di cui Enrico Letta è nostalgico, esule. Ma tu oggi fai battute cattive sui 5 Stelle, sul centro, su tutti, veramente sei troppo cattivista. Invece era interessante il tentativo di dare una riscrittura ritmica. Hai sentito canzone? Come cercava lo sforzato nasale da Benato? Non può esistere, che sembra un po' un Eros Ramazzotti della canzone italiana. Musumeci, la vendetta contro Cancelleri. Musumeci, eccolo. Non si sente, vabbè. Troppo. E allora chiudiamo dai commenti umanitari di Cancelleri. Il Napoli ancora in vetta, e ancora in vetta con un gol di Mertens. Tu non hai mai amministrato manco un condominio di due appartamenti. Io ho governato per 10 anni la terza provincia del sud Italia, e l'ho fatta diventare la prima provincia d'Italia per indice di gradimento, per gare d'appalto, per qualità delle strade, per politiche culturali. Giancarlo, ma che namma a dire tutti e due? No, bellissimo. Queste mani hanno gestito oltre 930 miliardi di denaro ed io non so come sia fatto un avviso di garanzia. Non sono mai stato sfiorato da un sospetto. Che namma a dire? Le ragioni dei non eletti, cioè la forza elettorale dei 5 Stelle, dire noi siamo quelli che non sono mai stati eletti, quindi votateci, noi siamo il futuro. E invece le ragioni dei soldi. Bello questo trucco. Io vi ho dato i soldi, tutti i soldi. E non ho avuto avvisi. E non ho avuto avvisi. E allora andiamo al gol di Mertens. La palla ancora per il Caballero Triste. Traversone deviato, attenzione al viol! Ed è rete! Si gonfia la rete! Questa era la voce di Auriemma, il grande cantore delle gesta del Napoli. Continua a essere una cosa che mi piace, questa dei due piccoletti che sono come due demoni là davanti e portano il Napoli in classifica. Ma hai visto poi il commento di De Laurentiis, che già prefigura nel complottismo generale italiano, ci vuole anche il calcio. Che prefigura? Cosa adesso si inventeranno per farci perdere? Dice, adesso che siamo di nuovo in vetta si inventeranno qualche cosa. Non so se hai letto i commenti del presidente De Laurentiis, dice adesso si inventeranno qualcosa. È abile, abile, perché lo fa per caricare l'ambiente, vedi? Allora, di queste notizie mancava un audio però sulla grande novità che si è celebrata nel weekend, e cioè alla fine tira e molla, la Catalogna ha dichiarato la sua indipendenza. Siamo nella terra di nessuno, caro Alberto. In un modo intelligente, perché ha invitato alla disobbedienza civile. E, d'altro canto, è stata nominata la mitica Soraya, la vice del governo castigliano, a gestire la Catalogna abolita, cioè la dipendenza abolita. Stiamo a vedere che succede. Intanto ieri la squadra del Girona, che è il paese di cui è stato sindaco Puigdemont, ha battuto il Real Madrid tra cori degli ultra del Girone che chiamano Libertad, Libertad. La disobbedienza civile, che già abbiamo visto col Barça, si sposta negli stadi. E però i blancos non sono stati fischiati, Neanche un pomodoro sul vetro. È una strana fusione di sangue, passione. Perché questo estremismo catalano è meno estremo di quello che pensiamo. Innanzitutto Puigdemont chiama una resistenza non violenta. E poi non dimentichiamo che ieri nelle piazze di Barcellona hanno sfilato quasi 500.000 di persone per rimanere uniti con la Spagna. Erano 900.000 gli unionisti. 900.000? No, scherzo, lo dicono loro. No, per la questura 300.000, io dico 500.000 per approssimazione. Sempre questurile. Fatto sta che comunque sia, in ogni caso, non sono così granitiche le ragioni degli indipendentisti. È possibile che si aprirà un grande psicodramma in salsa spagnola con assenza preoccupata di noi europei per capire come transitare la Catalogna verso un'indipendenza dignitosa che però non rompa gli equilibri europei. Allora, accennavi alla saga dell'isola che non c'è, il centrosinistra italiano che non si costituisce. Renzi, dopo una serie di mi ami, ti amo, ti odio, eccetera, strappi, eccetera, ha aperto il centrosinistra e questa volta Bersani non ci sta. Dice, troppo tardi. Renzi ha pronunciato un discorso tutto basato sui no. Noi non siamo quelli che fanno, non siamo come che gli altri, noi non siamo, però apriamo, però chiudiamo, eccetera, eccetera. È un discorso, un capolavoro democristiano questo discorso di Renzi. E di fatto la sua apertura alla sinistra è troppo tardiva. Noi apriamo anche a quelli che hanno sbagliato. Mi viene in mente Oscar Giannino quando disse qualche giorno fa qui ai questi microfoni, dice, voglio allearmi con te, brutto stronzo. Cioè, voglio allearmi anche con voi che siete stronzi. È normale che il buon Roberto Speranza dica, mi dispiace amico mio, è troppo tardi, non ci stiamo. D'altro canto i sondaggi danno Bersani, Speranza, eccetera, eccetera, intorno a un dignitoso 10% che gli permetterà di negoziare con chi vuole. E poi c'è la novità di Grasso, anche lì è divertente perché dice, io non voglio polemizzare con Grasso, però non è, però sono d'accordo con Gentiloni. E la battuta di Renzi dice, su Grasso sono d'accordo con Gentiloni, e io rispondo con una battuta, abbiamo trovato almeno una cosa in cui Renzi è d'accordo con Gentiloni, cioè su Grasso, perché su tutto il resto è evidente che nonostante il fioretto democristiano dei due non sono d'accordo su niente. Allora, che cosa c'è? Io voglio allearmi con te, Paolo, brutto stronzo. Ah, è il verbo, il verbo. Esattamente, vedi. Se no rischiavamo di perderlo. E l'ultima grande questione che è accaduta nel weekend, ma su cui serve un tuo commento, è lo spin doctor dell'Appennino affondato da una multa. Erano le due vicende su cui si è più discusso sui social. La multa fatta togliere lo spin doctor dell'Appennino che si è dimesso e le quattro strade di Ercolano pulite per arrivo della Boschi che alla fine non è andata. E dunque, sembrano vicende da sotto governicchio, no? Allora, finché lo facevano quelli del PD, cioè, c'è sta un amico mio che ti toglie la multa al comune, parlo dei vigili urbani, diciamo, allora, bella, ah, beh, eccetera, il eccetera. Potere di far togliere una multa, ma ecco, noi per 4 punti si inciampa su queste bucce di banana. Ecco, sostanzialmente stiamo scoprendo che i 5 Stelle in salsa o il potere sono esattamente italiani come tutti gli altri. E in questo momento però la giunta Appendino, la cui sindaca sta sotto inchiesta per falso in bilancio, non ci voleva la dimissione del suo spin doctor Paolo Giordano, uomo espertissimo della macchina. Sì, ha detto, adesso ha detto avrò più tempo libero. Avrò più tempo libero. Grillo ha dichiarato: la cosa l'abbiamo chiusa in 24 ore. Il problema è perché si era aperta per una mentalità di governo che è tutto sommato mediocre. Cioè, se tu vuoi fare il 5 Stelle, fallo fino in fondo, non far togliere le multe agli amici. Io invece mi preoccupo di più, perché questo Giordana comunque era un uomo che conosceva la macchina, quindi la domanda è chi lo sostituisce. Dunque, al 5 Stelle non mancano spin doctor di vario genere, conosceva la macchina, però insomma a Torino Appendino c'è intorno una serie di consiglieri piuttosto bravi, Luigi Di Maio c'ha una consigliera brava che è la sua fidanzata, la Virgulti, è una spin doctor, cioè il 5 Stelle è pieno di spin doctor. Il consigliere è la fidanzata di Di Maio, la Virgulti, certo. La Virgulti. Sì, sì, sì, la Virgulti che è una specialista di public speaking, una mia collega, cioè una che insegna la mia materia, public speaking. Rivelazione. Certo. Senti, ma ti sei accorto che Depeche Mode stavano cantando per te, per dare un senso epocale alle tue frasi? Devo dire, meglio Depeche Mode dei Depress Mode di Enrico Letta che fa il karaoke. Depress Mode! Con tutto che voglio bene Enrico, scusa Enrico sei mio amico, però il karaoke lo riserverei ad altri momenti. Allora 349-238-6666 per i vostri messaggi di navigazione. Ci fermiamo per le strade e torniamo fra poco. Facciamo un avvertimento sindacale: è immorale alzarsi a questo. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta "24 Mattino". Già svegli. Ciao Radio 24, io sono sempre attaccato a te, ti ascolto notte e giorno. Io sono già sveglia perché penso che con la mia pensione di 453 non aumenta mai. Penso cosa fare, cosa comprare, come tirare avanti. Io mi sveglio ogni giorno all'alba e ti ascolto, Terese, per 3 motivi. Il fritto misto, i già svegli e per sentirti venir tagliato puntualmente alle 6:55. Buongiorno, sono già sveglia da un bel po' e queste sono le ore che io chiamo del pensatoio. Buongiorno, mi ha svegliato il boom della bomba scoppiata ieri in Senato. Sono felicissima, ma veramente felice, perché Grasso è il politico che avrei sempre desiderato. Vorrei che venisse moltiplicato. Ma mi sveglio molto presto, di solito, anche perché sto rincorrendo stamattina, per esempio, il prossimo volo per New York. Terese e Giannino, tutti il mattino! Non vi sopporto più! È tornato il grande rimatore, è bello questo popolo dei già svegli. Ricordatevi, aggiungete anche un frammento del vostro racconto alla segreteria telefonica dello 02 30 22 4492. Ah, sono tornati loro, i Depeche. E c'è stata una cosa brutta, proprio brutta, brutta, brutta. E per proprio dopo che c'è stata la grande polemica, il tifo della Lazio è antisemita, un gruppo di tifosi della Roma, o sedicenti tifosi della Roma, o teppisti travestiti da tifosi della Roma, hanno inseguito un povero cuoco bengalese gridando il negro, negro, negro, massacrandolo di botte fino a renderlo irriconoscibile. Ma io mi chiedo veramente questi dove hanno la testa. E dunque negli anni 90 abbiamo visto i naziskin che si accanivano contro i barboni di Piazza Vittorio a Roma con benzina, alcol, dandogli fuoco. Pensavamo che questi episodi fossero confinati nel ricordi delle squadracce, insomma, del passato, professor Passatini. Invece purtroppo anche a Torino c'è stato un barbone che ha subito addirittura un rogo, ce l'hanno beccato in un giardino che dormiva e gli hanno dato fuoco. È evidente che sull'epidermide di questo paese stanno passando delle cose molto brutte, caro Luca, e che dobbiamo intercettarle e negro, capire per tempo. Vattene dall'Italia, in 5 fra 17 e 19 anni. Sono giovanissimi, fra l'altro. Ma sai, basta ascoltare, che so io, la Zanzara di Cruciani, o programmi televisivi, o leggere i blog che ci sono in giro, che, la Zanzara, dico, come uno dei tanti spazi che danno voce alla pancia, quella virulenta del paese. Li fa uscire che, fuori. Che negro vattene via, lo senti dire anche a stimati, che ne so io, commercianti, commercialisti o imprenditori. Quindi questi ragazzi non sono altro che l'anello debole della catena, sono i tipici bulletti ultra che poi manifestano queste cose, che purtroppo c'è una maggioranza silenziosa, minoranza silenziosa, che purtroppo pensa veramente. Il tuo fine settimana, quello tuo personale, da cosa è stato dominato? È stato dominato da Pecorozzi, il mio cane, con Bull Terrier, che improvvisamente ha deciso... Si chiama Pecorozzi? Sì, si chiama Pecorozzi. Bull Terrier perché hanno un muso lungo tipo pecora, lui si chiama... Anche nel quartiere lo conoscono come Pecorozzi. È stimato, Pecorozzi, è conosciuto nel quartiere. Sì, Pecorozzi, che pur essendo un cane che piace ai fascisti, perché Bull Terrier è un cane del PD, cioè democratico, ha cominciato a fare una cosa che a me ricorda molto i discorsi di Matteo Renzi, cioè ha cominciato a girare vorticosamente inseguendo la sua coda e mordendo la sua coda fino a farla sanguinare. Quindi ho passato un fine settimana all'ospedale veterinario Gregorio VII con questi dottori che guardavano Pecorozzi che, come Matteo Renzi, gira su se stesso mordendosi la coda. Ma ha perso anche lui un referendum costituzionale, qual è il motivo? Non si sa qual è il motivo, probabilmente il fatto che gli edifici trovarono scopo guardando avanti. Pecorozzi è un cane un po' tonto e quindi si guarda la coda, è come l'uomo di Nietzsche che cammina verso il futuro. È un'immagine bellissima, drammatica per me, che ho passato il fine settimana da un lato vedendo Matteo Renzi in un museo storico di treni, cioè un binario morto, e dall'altro vedendo Pecorozzi che si mordeva la coda. Sei stato al cinema? Non sono stato al cinema questo fine settimana, no. Appunto, il mio spettacolo è stato La coda insanguinata del PD e di Pecorozzi. No, perché io ho portato i bambini a vedere Thor e sono rimasto veramente stupito di ormai che cosa c'è dentro un film per ragazzi. E c'erano le valchirie, c'era Odino, c'era il dio del tuono che lì per un refuso viene chiamato zio del tuono, e c'erano le scenografie con le spade, i martelli, i fulmini, spade laser, sembrava un misto di Guerre Stellari. Alla fine ormai forse questo cinema in cui c'è dentro tutto è un po' una bella rappresentazione del nostro contemporaneo. Ma sai, questi personaggi della Marvel, questi personaggi supereroi sono di fatto la mitologia greca del presente. D'altro canto, nel senso che rappresentano altrettanti divinità greche con superpoteri. E se tu oggi vedi, per esempio, i miei studenti all'università, ragazzi, cioè, il modo in cui si ricordano tutti i nomi, hanno studiato addirittura la lingua fantastica di Game of Thrones, no? Trono di Spade. C'è una nuova mitologia di sintesi che mescola un po' tutto, appunto. Thor, esatto, Odino. È un po' la matriciana. Sì, Guerre Stellari. Esatto. Anche quei film maciste contro i crociati, quelle esatto, cose così, con questi vestiti post-punk, post-cyberpunk, con un misto di Blade Runner, di Ridley Scott. Esatto. È questa neopop. C'è bisogno? Funziona? Perché piace? Ma sì, perché tutto sommato abbiamo bisogno di radici mitologiche in un non luogo, in un futuro passato lontano, che tutto sommato esprime questo senso di sospensione dei giovani, che non riescano a collocarsi nel passato. Nel presente ci stanno maluccio e nel futuro non ci guardano. Quindi viva Thor, viva Game of Thrones, viva queste saghe mitologiche che invece sono piene di grandi passioni. E la frase che ti voglio consegnare, e mi dispiace per quelli che hanno, no, stai spoilerando, è la frase chiave del film. Lui deve scegliere di salvare Asgard o i cittadini di Asgard, e allora ha una visione meravigliosa di Anthony Hopkins con l'occhio guercio che cammina su una meravigliosa scogliera scandinava e gli dice: ricordati, Asgard non è un luogo, è un popolo. Bella, eh? È la sinistra. È il popolo della sinistra. Io in questo fine settimana interpreto tutto l'isola che non c'è, Pecorozzi, il popolo della sinistra. Cioè, tutto mi parla di questa sinistra in cerca di se stessa. Ma rifletti sul senso di questa frase. Asgard, il PD non è un partito, è un popolo, è un popolo, è bellissimo, il mito del popolo che torna. Beh, di fatto c'è questo bisogno di ritrovare che cosa vuol dire l'identità di un popolo. Intorno... Quindi, no, ma per dirti che questo tipo di film che frulla tutto, che ti sembra un cartone animato, eccetera, significati importantissimi, poi alla fine passa un grande messaggio. Sì, che di fatto capire che un popolo non è necessariamente uno stato, una nazione, ma è qualcosa di, è un ideale collettivo, è anche un insieme di significati mitologici, di simbologie. Forse Thor parlava della Catalogna. Forse parlava della Catalogna, forse speriamo che non parlasse della Lombardia o di Musumeci. Strade in diretta e torniamo. Babbaleo, impara a parlare e impara la grammatica prima di leggere i giornali.